Bucarest, Radio Romagna Internazionale. Amici di Radio Romagna Internazionale, il ponte è aperto a tutti gli ascoltatori di lingua italiana, membro associato della comunità radiotelevisiva italofona. Siete in ascolto del secondo programma della giornata nella banda di 5910 kHz e su internet all'indirizzo www.rri.ro canale 3 in qualsiasi formato. Questo programma è disponibile anche on demand sul nostro sito. Trovateci anche su Facebook alla pagina Radio Romagna Internazionale in italiano. Grazie e buon ascolto. Quotidiano parlato. Cominciamo con il notiziario. Buonasera da Dina Vasile. Passiamo subito alle notizie. I romeni sono tra gli europei più ottimisti sulla ripresa dell'economia del proprio paese. Lo rileva un sondaggio condotto nell'Unione Europea dall'Istituto di Ricerche di Mercato GfK. Prima dei romeni in classifica solo i tedeschi e gli austriaci. D'altra parte, un sondaggio realizzato dall'Istituto Romeno per la valutazione e la strategia rileva che per la prima volta negli ultimi 4 anni i romeni si dichiarano ottimisti anche sulle prospettive finanziarie per le spese pasquali di quest'anno. Allo stesso tempo, il numero di coloro che ritengono che il loro budget per le feste pasquali risenta della crisi economica è minore rispetto agli anni precedenti. La Banca Centrale Europea ha abbassato oggi il tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale, fino al livello minimo record di 0,5%, al fine di stimolare l'economia dell'Eurolandia minacciata da una nuova recessione. I dati statistici resi pubblici martedì da Eurostat rilevano che il tasso di disoccupazione nell'Eurozona ha raggiunto un livello record, mentre l'inflazione ha toccato il più basso valore degli ultimi 3 anni. La Banca Centrale Romena ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al 5,25% all'anno. Il governo romeno ha trasmesso oggi alla Commissione europea una richiesta dell'Associazione romena dei produttori di carne sull'introduzione della ricetta delle salsicce tradizionali romene mititei tra le ricette tradizionali. Dal 1 giugno prossimo la produzione di mititei secondo l'attuale ricetta dovrebbe essere vietata, in quanto entrerà in vigore la nuova lista della Commissione europea con gli additivi alimentari messi al bando. Tra questi additivi si annoverano anche quelli usati per la preparazione dei mititei, il bicarbonato di sodio, ma anche un conservante ed un antiossidante. Altri prodotti tradizionali come il burger oppure la salsiccia spagnola chorizo non sono sottoposti a queste regole. Oggi è il giovedì santo per i cristiani ortodossi ed uniati, il giorno in cui la Chiesa ricorda l'ultima cena di Gesù e rievoca la lavanda dei piedi per rinnovare la memoria dell'atto di umiltà con cui Gesù Cristo li lavò ai suoi apostoli. In Romania, paese a maggioranza ortodossa, i fedeli partecipano questa settimana nelle chiese a messe speciali chiamate Deni, che rievocano gli ultimi momenti della vita di Gesù prima della crocifissione. Quest'anno gli ortodossi celebrano la Pasqua il 5 maggio, a 5 settimane dopo i cattolici e i protestanti. Per i romeni oggi è il secondo giorno del ponte pasquale, che si concluderà il 6 maggio nel giorno della Pasquetta ortodossa. Decine di migliaia di turisti hanno scelto come destinazione per questa mini vacanza il litorale romeno del Mar Nero ed altre decine di migliaia le stazioni montane. Queste le notizie. Benvenuti cari amici ad un nuovo incontro con la rubrica Terre e Sapori. Buonasera da Dina Vassile. I romeni in maggioranza ortodossi celebrano quest'anno la più importante festa cristiana, la Pasqua, il 5 maggio. Per tradizione in Romania nel Giovedì Santo si colorano le uova sode, soprattutto di rosso, simbolo del sangue versato dal Redentore per l'espiazione dei nostri peccati. Uova che si donano come auspicio di rinascita e fecondità e che vengono consumate durante la colazione della mattina di Pasqua. Lo sformato e l'arrosto di agnello sono immancabili dal pranzo pasquale dei romeni, come anche il panettone e la torta di pasta frolla farcita con ricotta e uva sultanina oppure frutta candita, chiamata Pasqua, che nella notte di Pasqua viene portata in chiesa per essere benedetta e solo dopo viene consumata. L'uovo pasquale dipinto con la cera d'ape calda mescolata a colori vegetali è anche un prodotto portabandiera dell'artigianato romeno, realizzato con tecniche molto elaborate. I suoi motivi decorativi illustrano la vita e la spiritualità contadina, con i loro simboli, uccelli, animali, piante, attrezzi e scene bibliche. I custodi dell'arte popolare e della pittura delle uova li troviamo nella regione storica Bucovina, nel nord-est della Romania, dove questa tradizione, tramandata di generazione in generazione, è molto viva. Ogni anno, durante la Settimana Santa, potete scoprire quest'arte percorrendo in Bucovina la Via delle Uova Dipinte, circuito turistico ideato nell'ambito del progetto Pasqua in Bucovina del Consiglio Provinciale di Suceava, che illustra le tradizioni pasquali presso i romeni e che prevede una grande varietà di appuntamenti. Le località e i centri artigianali in cui si fanno tradizionalmente le uova dipinte, come Ciocănești, Vatra Moldovițe, Sucevița, Margine Apulna oppure Brodina, le mostre vendita di artigianato locale, le chiese, i monasteri, i musei e le sagre gastronomiche sono le tappe del viaggio lungo la Via delle Uova Dipinte. Della Settimana Santa, nell'ambito del progetto Pasqua in Bucovina, siete invitati anche a concerti di canti religiosi oppure di musica sacra suonata con strumenti tradizionali in legno e a mercatini di Pasqua. La Bucovina è il luogo prediletto di pellegrinaggio perché ospita le chiese ad affreschi esterni dei monasteri della provincia di Suceava, di cui 7 incluse nella lista dell'UNESCO del Patrimonio Culturale Mondiale. Ciascuna è contraddistinta da un colore specifico: Voronezh dall'azzurro, Umor dal rosso, Sucevița dal verde, Moldovița dal giallo dorato e Darbore dal mix di ocra e verde. Covina è giunta a questi giorni come turista Gio Pozzi della provincia di Varese, la quale ci ha cortesemente raccontato le sue impressioni. È per la prima volta turista in Romania? Sì. E come si fa nel nostro paese? Come tu? Direi ottimamente bene. Io ci avevo pensato addirittura. Un obiettivo prioritario, diciamo, era la visione dei vostri monasteri e dei monasteri della Bucovina. Però il programma è stato un programma abbastanza vario, perché ha compreso anche la Transilvania, la Moldavia, quindi anche aspetti, diciamo così, culturali, artistici e paesaggistici, perché poi concluderemo col delta del Danubio andando fino a Costanza. Quindi una tappa speciale di questo viaggio alla scoperta della Romania sono stati proprio i monasteri, le chiese della Bucovina. Sì, per me sì, perché avendo già l'anno scorso fatto l'Armenia, i monasteri dell'Armenia, volevo vedere proprio di persona questi monasteri vicini e le dirò che mi hanno veramente colpito e sorpresa, innanzitutto per il loro stato di conservazione e poi per questa rappresentazione, diciamo così, pubblica, evangelica, universale. Oltre alla Bucovina si è fermata con il suo gruppo anche in Transilvania, nella città di Sibiu. Sì, molto bella, un altro gioiellino dal punto di vista poi della conservazione, questo che ci ha stupito, la conservazione, i colori, poi soprattutto siamo stati fortunati anche per clima, perché il tempo ci è stato favorevole, per cui tutti i monumenti, i centri che abbiamo visto con il tempo, diciamo così, favorevole, con il sole, chiaramente hanno messo in risalto ancora di più le loro caratteristiche. Ha avuto l'occasione di vedere le nostre uova dipinte pasquali? Già conoscevo questa vostra tradizione perché nella mia città ci sono alcune signore e mi avevano già fatto conoscere questa vostra tradizione, anzi qualcuna me l'aveva preparata già per la nostra Pasqua che è avvenuta 45 giorni prima che da voi. Sono innanzitutto tipici e sono interessanti, è chiaro che rispecchiano quelle che sono le vostre tradizioni del mondo anche contadino. Sono belle anche molto le vostre camicette ricamate, gli appiantami proprio, no? Quelli tradizionali, sì. Quelli tradizionali. Sì. Va bene signora, noi la ringraziamo tanto per la cortesia di averci raccontato queste impressioni e le auguriamo buona permanenza in Romania. E a voi auguro di continuare a sviluppare sempre così e tener cura dal punto di vista culturale e paesaggistico in la vostra terra. Tanti auguri per voi. Grazie tante, alla prossima. Alla prossima. Le tradizioni pasquali romene le potete scoprire anche in altre zone della Romania. Iuliana Ungureanu, ispettrice presso il comune di Câmpul Mușcel, città della provincia di Argeș, della regione Valachia, nel sud della Romania, ci invoglia con i prodotti tipici della zona. Avem produse tradiționale specifice, covrigul de ou, există și un festival al covrigului. Come prodotto tipico pasquale, noi abbiamo anche la ciambella, l'uovo, che invitiamo i turisti ad assaggiare al nostro festival locale, che si svolge proprio questi giorni. Nei nostri agriturismi potete assaggiare tutti i prodotti gastronomici tipici romeni, tra cui regna il formaggio stagionato in corteccia di pino. Se passate per Câmpul Mușcel, non lasciatevi sfuggire un viaggio a ritroso nel tempo visitando il castro romano di Jidava. Anche i centri di artigianato popolare di Râșnov, cittadina turistica della provincia di Brașov, nel centro della Romania, vi aspetta il periodo della Pasqua, con dimostrazioni di dazione delle uova. Sempre a Râșnov potete prendere lezioni di danze tradiționali romene. Nicolae Pepene, responsabile del Dipartimento Cultura del comune di Râșnov, racconta. Avem un festival concurs. Questa settimana abbiamo un concorso di pittura delle uova dove i turisti sono invitati ad esprimere la loro creatività partecipando ai laboratori artigianali. Râșnov è un'oasi di tranquillità e tradizioni autentiche, ha detto a Radio Romania Internazionale Nicolae Pepene. Anche gli alberghi ed agriturismi sul litorale romeno del Mar Nero e del Delta del Danubio hanno delle offerte di vacanze pasquali molto interessanti, come racconta Mihaela Lezăreanu, consigliere turistico presso l'Associazione per la promozione del litorale del Delta del Nubio. Pentru le pascale din le agenzie viaggi hanno pacchetti turistici speciali per questo periodo, che puntano sulle pietanze tradizionali, sulla caccia all'uovo dipinto e sulle partecipazioni alle messe di Pasqua. Poi i turisti si possono dilettare con programmi spa e benessere. I prezzi variano tra circa 15 euro a persona in un albergo a 3 stelle e circa 22 euro in un albergo a 4 stelle e 44 euro in quelli a 5 stelle. Si va detto che le temperature sono ottime sul litorale romeno e si può già andare in spiaggia a prendere il sole, ha detto a Radio Romania Internazionale Mihaela Lezăreanu. Con ciò punto finale alla nostra rubrica Terre e Sapori. Dando Radio Romania Internazionale in italiano. Buonasera carissimi amici, sono Iuliana Angel e vi invito a seguire una nuova puntata di Incontri Italofoni a Radio Romania Internazionale. Carissimi amici, parliamo oggi della seconda edizione del Festival di Lettura Giovane nei licei bilingui italo-romeni della Romania. Ma prima vogliamo ricordare che nel 2009, quando sono stati celebrati 130 anni dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Bucarest e Roma, veniva festeggiato anche il 100° anniversario della fondazione del Dipartimento di Italiano presso l'Università di Bucarest, grazie all'imperiologo e linguista Ortiz, che nel 1900 giunse in Romania per insegnare la lingua e la letteratura italiana. Oggi in Romania l'italiano è studiato dalla scuola fino all'università. Contano 5 licei bilingue, Dante Alighieri e Ionne Cucarest, Transilvania, a capoluogo della provincia di Hunedoara, George Bariciu a Cluj-Napoca, capoluogo della provincia di Cluj, ma anche Jean-Louis Calderon a Timișoara, capoluogo della provincia di Timiș. La lingua del bel paese è studiata nei principali centri universitari di Bucarest, Costanța, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara o Craiova. Una bella iniziativa promossa dalla Cattedra di Italianistica dell'Università di Bucarest e dai lettorati di italiano dei licei bilingui della Romania, con la partecipazione della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, il Festival di Lettura Giovane, giunto nel 2013 alla seconda edizione. L'evento si svolge sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Romania e dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, nonché dell'Associazione Italiana Editori. Gli alunni sono invitati a leggere dei romanzi italiani contadini e a partecipare su di recensioni. All'edizione 2012 sono state le letture dei romanzi Se conti le colpe di Andrea Bai, Dio comanda di Nicolò e Vita di Melania Mazzucco. Invece l'edizione 2013, che ha avuto come tema adolescenza e viaggio, ha proposto ai ragazzi le letture dei volumi Acciaio di Silvia Avallone e La bolla d'oro di Sergio Valzania, presentata anche lo scorso anno alla Fiera Internazionale del Libro Gaudamus, organizzata da Radio Romania. Della giuria hanno fatto parte la professoressa Smaranda Elian, responsabile della collana italiana dell'editrice romena Humanitas, e Oana Bosca Malin dell'Università di Bucarest, insieme allo scrittore Andrea Baiani. Alla premiazione ospitata il 29 aprile dall'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, la professoressa Smaranda Elian ci ha raccontato tutto sul Festival di Lettura Giovane. L'iniziativa è nata dalle conversazioni che abbiamo avuto così fra amici, alcuni di noi, cioè professori universitari, con colleghi lettori italiani che insegnano nei licei bilingui di Bucarest. E parlando di nostri studenti, di quello che vorremmo da loro, quello che non ci soddisfa, abbiamo tentato di trovare una strada per migliorare uno degli aspetti che ci facevano male, diciamo, e che speriamo che nel futuro ci facciano meno male, cioè il rapporto che la gioventù ha con la lettura. E allora abbiamo tentato di incentivare la lettura per aprire un orizzonte di un altro tipo, di quello dell'internet, delle nuove tecniche di comunicazione, cioè il ritorno alla lettura e al libro. E con nostra gioia la cosa ha funzionato e è cresciuta dall'anno scorso, è diventata più difficile, più impegnativa, ma ha avuto più successo dell'anno scorso, così che siamo molto felici per quest'anno e siamo molto speranzosi per l'anno prossimo. Come vengono selezionati? Beh, i libri vengono selezionati praticamente da questo gruppo di organizzatori che si incontra in modo speciale e in tempo per discutere di quello che è apparso. Una delle condizioni per proporre i libri è che il libro non sia tradotto, e già in romeno, sì, perché mentre l'anno scorso i libri sono stati libri scritti da scrittori italiani ma tradotti in romeno, quest'anno e l'anno prossimo evidentemente continueremo con questa variante, saranno proprio libri in italiano, dunque devono essere libri che siano interessanti come argomento, come tipo di scrittura per la gioventù, e dall'altra parte che non siano ancora tradotti. Facciamo un brainstorming fra di noi, proponiamo questi libri e poi discutiamo con quelli che ci offrono la materiale di acquistarli, vedere un po' che disponibilità hanno le case editrici e l'Istituto Italiano di Cultura di acquistare un numero sufficiente di copie per poterle distribuire ai 5 licei bilingui. Quest'anno è stata proposta Silvia Avallone, vincitrice di più premi letterari e finalista del premio Strega, e Sergio Valzania, che è stato anche in Bucarest con un bellissimo libro, parte di viaggio, parte di costruzione dell'io del personaggio. Direi che non siano molti libri, i libri normalmente dovrebbero essere due, al massimo tre, perché ogni liceo deve ricevere un numero significativo di ciascuno di questi libri e far girare le copie tra i giovani della scuola. Come hanno accolto i giovani la lettura della bolla d'oro di Sergio Valzania? Secondo me l'hanno accolta bene, prima di tutto perché Monte Athos è un mistero in genere, anche per noi ortodossi, greco-ortodossi, per gli italiani forse ancora di più, sì. Però il modo in cui Valzania descrive quell'atmosfera, quel paesaggio, quei rituali, quel tempo che si ferma, quel modo di vivere in un'altra dimensione rispetto a quella moderna e molto tumultuosa in cui siamo noi abituati, è una cosa affascinante, così che molti, cioè praticamente più di metà di questi giovani, perché loro avevano la libertà di scegliere fra i due libri, più di metà hanno scelto questo libro e sono stati molto, molto attenti lettori, secondo me, di questo universo altro che descrive Valzania. Gabriel Mihai Hai Kulchar, alunno nella quarta superiore del liceo bilingue Giorgio Barizio di Cluj, il vincitore del terzo premio per la sua recensione dedicata al romanzo La bolla d'oro di Sergio Valzania. È un romanzo che introduce il lettore curioso nel mondo greco, un romanzo che combina una ricerca di tipo detective con il mondo cristiano ortodosso della Grecia, scrive Gabriel nella sua recensione e prosegue. In altre parole, il libro rappresenta l'incontro di due grandi confessioni cristiane, il cattolicesimo e l'ortodossia. Solo tramite questo viaggio il mondo cattolico di Carlo ha avuto la possibilità di incontrare il mondo ortodosso di Christos, due mondi con concezioni diverse però uniti in Dio, scrive il giovane, il quale ci ha detto che La bolla d'oro è uno dei pochi romanzi contemporanei. Cosa mi ha detto di questo festival di lettura giovane? Ci ha portato i libri e questo romanzo è stato il primo. Ho messo la mano su questo e così hai scelto? Sì. E come l'hai fatto la lettura? Com'è stata e come definiresti il romanzo? All'inizio mi pareva un poco misterioso, poi ho fatto un'altra lettura e dopo questa seconda lettura ho scoperto la vera tema del romanzo, cioè la religione, la fede. È uno dei pochi romanzi contemporanei che mi è piaciuto. Ho fatto un confronto con ortodossia e cattolicesimo, poi ho notato che il cellulare squillava sempre, cioè il cellulare rappresentava una catena con l'Italia, con il mondo cattolico. Carlo non riusciva a stabilire una relazione con Dio, era la colpa del cellulare. Questa ricerca di Bosconi era solo un motivo per poter fare questo mondo ortodosso e mediterraneo di Grecia. C'è anche il giallo, qui c'è questo mix, no? Sì, all'inizio non era molto stato a visitare i monasteri, solo importante credeva che poi era Bosconi. Stabilire una relazione con questo mondo. E ti ha destato la curiosità di andare a visitare il Monte Athos? Sì, credo che la faccio subito. Vuoi andare proprio presto? Vabbè, noi siamo sotto Pasqua, penso che non ce la fai per andare proprio adesso, però magari pensi alle vacanze di andare al Monte Athos? Sì, per le vacanze d'inverno. Non d'estate, fa troppo caldo in Grecia d'estate. Sì. Complimenti allora ancora una volta. Grazie anch'io. La professoressa di Gabriel è Anca Crăciun e spiega che nella città di Cluj c'è tanto interesse per lo studio dell'italiano. Per noi è stato il primo anno che abbiamo partecipato a questo festival. I ragazzi l'hanno accolto molto bene, hanno partecipato volentieri anche perché sono molto amanti della letteratura. Quindi non c'è voluto molto sforzo da parte mia, queste le cose sono da sole. E loro hanno scritto le loro recensioni personali senza un grosso contributo da parte mia. Io praticamente ho fatto solo con le correzioni sulla... Però sono ragazzi, dei ragazzi che amano letteratura. E quanti ragazzi hanno l'italiano a Cluj? Praticamente nella nostra scuola, nelle medie c'è una classe per ogni livello, dalla prima alla quarta media, poi al liceo uguale, dalla prima superiore alla quarta superiore. Praticamente ci sono 8 classi nella nostra scuola, poi ci sono altre 2 scuole dove si studia l'italiano a Cluj. Quindi c'è un grande interesse, poi sappiamo che a Cluj si studia l'italiano anche all'università. Qui c'è la facoltà di lettere, poi c'è il centro culturale italiano e c'è una grande collaborazione tra la nostra scuola, la facoltà e anche il centro. C'è anche un lettore italiano al collegio Giorgio Barizio? Sì, c'è un lettore, si chiama Patrizio Trequattrini, che ha aiutato molto anche questo progetto, si è impegnato pure lui tanto. Il primo premio consiste nella partecipazione diretta al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove il vincitore viene coinvolto nelle attività svolte dalla sezione giovani. Quest'anno tocca ad Adelina Stoyandarest, che ha fatto una recensione romanzo acciaio di Pallone. Prima di tutto era una cosa molto impegnativa. La cosa che mi ha spinta, diciamo, era la passione per la letteratura, soprattutto la letteratura italiana contemporanea. La lettura mi è piaciuta tantissimo, mi ha fatto riflettere su tante cose, sui rapporti con la famiglia, sulla mia vita come adolescente. Tutto ciò che descriveva nel libro io mi ritrovavo in quelle situazioni. Sì. Cosa aspetti da questo Salone di Torino? Mi aspetto che sia una bella cosa, una scoperta della letteratura per me, perché non ho mai avuto un'esperienza del genere, non ho mai vissuto una cosa di tale importanza, diciamo. Contentissimo dell'iniziativa del Festival di Lettura Giovane, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, Ezio Perna. Ottimo, perché come il nostro governo che è appena nato, anche